dio cara, in vedersi scomposti sulle bianche tue membra, errarli usati freggi, incolti e sparsi. Onde ridir non so se per celarne o per farne delizia agli occhi miei. Tocca le tue bellezze, se queste te gradite sommor qual vostri ordini, perché più tu non l'ami. Leonilla infino e il grandottone adoro, vegio che porti Roma, signor, non è contenta di vedersi lontan dagli occhi tuoi. Dunque m'invide Roma, che per brevi momenti in questo luogo un bel riposo io goda. Forse ciò fa per secondar tue voglie. Ma pur Roma, io l'idol mio sale siego. Resta qui chiecio, intanto mentre io scrivo al senato. Il tuo accenno obbedisco. Quanto nell'amor suo resta ingannato,